Salute, cari amigos, como es vos omnes? Io es molto ben hodie. De facto, io me senti rejuvenate pro haber laborate all'exterior quasi tutte le settimane. Io leggevo una cosa interessante nella nostra interlingua. Si tratta del governamento statunitense che utilizza l'intelligenza artificiale pro sorvegliare le media sociali e identificare alcuni narrativi che non piace al governamento. Io utilizzo il termine disinformazione. On sape che la disinformazione è lo che il governamento vuole che lo sia. Ogni governamento totalitarista nomina disinformazione la verità che non è in accordo con il discorso ufficiale. Dunque, questa parola è quasi un parola codice per significare ogni cosa che non è politicamente corretta. Dunque, quando io leggo che on vuole combattere contro la disinformazione, io comprendo che questo è nient'altro che la censura. Dunque, il governamento statunitense decideva utilizzare l'intelligenza artificiale per fare questo combatto contro le discorsi contrari al discorso ufficiale. Io vide che non è solamente persone individuali che dice cose false, ma il governamento mesmo ha creato alcuni narrativi. E nel caso degli Stati Uniti, io vide che tutto questo che occorreva il 6 gennaio 2021, quando il aveva alcuni cittadini che entrava in l'appartamento statunitense e veramente non faceva una cosa altre che riguardare e circolare e postea il se quitava. Dunque il governamento nominava questo in insurrezione, quasi il non sapeva la significazione del termine insurrezione e non aveva una insurrezione. Si trattava solamente dell'entrata illegale in un edificio del governamento. Ma il narrativo che creava le giornali e de facto tutto l'apparato del governamento è totalmente differente della realtà. E si tratta di tal narrativo, un sorto di combatto inter tal narrativo che attualmente occorre nella rete. E il governamento vuole maestrare questa situazione con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Ma noi, che possiamo fare per proteggersi contro tal disinformazione del governamento? E si decide che il governamento faccia tutto questo in nome di combattere la disinformazione. E de facto è ILIS che fa la disinformazione. Qual ironia. Ma che potevano fare? Primo, on non poté fidarsi a qualcosa che una persona dice se non conosce questa persona, e mesmo se on conosce le, on deve sapere de ubi ile apprendeva questa informazione. Es que su fonte è fidibile? Es que ile videva queste cose mesme? O es que ile conosce le persona, le testes, chi videva le cose super le quali si le parla. Un'altra cosa che on pote fare è limitare nostra esposizione nel media sociale a solamente queste persone che non conosce personalmente. Dunque, prendere parte in gruppi in Facebook ubi il ha miles di persone che on non conosce non è una buona cosa, secondo me. Sì, questo è una maniera per voi di apprendere cose super le informazioni pubbliche. Io ho assolutamente nihil contro la partecipazione in gruppi che concerna un tema specifico, ma io penso che ha molte persone che si interessano a temi politici in la rete. In tal situazione io penso che le meglio non partecipare in tal discussione, nam il è molto probabile che le narrative saranno influite per personas que desiran hacer desinformación. Yo personalmente ha molto pensate re le opportunità de simplemente non più utilizzare le media sociali. Io non penso che questo è es una cosa positiva in mia vita. E io penso che tutto quello che io leggevo recentemente concernente le battaglie, le lotte contro la disinformazione, conferma il mio sentimento che le media sociali nos dà più male che bene. Es que vos utiliza media social altere que Telegram? Yo no. Yo cesaba utilizar Facebook. Yo cesaba utilizar Twitter. Yo non veramente utilizaba Twitter, ma yo simplemente non scrive una cosa nunca. E il pote arrivare che de tempore in tempore io utilizzarlo solamente per leggere una cosa che mi pare interessante, che un legamine, per esempio, io potrei cliccare su un legamine a Twitter, ma io non vado a questo sito semplicemente per informarmi, ma io penso che questa è la peggior maniera di informarsi. Arrivederci.